canto sesto della Divina Commedia, il Purgatorio di Dante Alighieri. Questa registrazione LibriVox è di dominio pubblico. Letto da Pierre. Canto sesto. Quando si parte il giuoco della Zara, colui che perde si rimando lente, ripetendo le volte, e tristo impara. Con l'altro se ne va tutta la gente, qual va dinanzi, e qual di rietro il prende, e qual da lato gli si reca mente. Ei non s'arresta, e questo e quello intende, a cui porge la man più non fa pressa, e così dalla calca si difende. Tal era io in quella turba spessa, volgendo a loro e qua e là la faccia, e promettendo mi sciogliea da essa. Qui vi era l'aretin che dalle braccia fiere di ghindi tacco ebbe la morte, e l'altro cannegò correndo un caccia. Quivi pregava con le mani sporte Federigo Novello, e quel da Pisa, che fe parer lo buon Marzucco forte. Vidi contorso, e l'anima divisa dal corpo suo per astio e per inveggia, come dicea, non per colpa commisa. Pierde la broccia, dico, e qui provveggia, mentre è di qua la donna di Brabante, sì che però non sia di peggior greggia. Come libero fui da tutte quante quell'ombre che pregar pur ch'altri preghi, sì che s'abbacci l'or divenir sante, io cominciai. E il par che tu mi nieghi, o luce mia, espresso in alcun testo che decreto del cielo orazion pieghi. E questa gente prega pur di questo. Sarebbe dunque loro speme vana? O non è il detto tuo ben manifesto? Ed egli a me. La mia scrittura è piana, e la speranza di costor non falla, se ben si guarda con la mente sana, che cima di giudizio non s'avvalla, perché fuoco d'amor compie in un punto ciò che dee soddisfar chi qui s'astalla. E là, dove io fermai cotesto punto, non s'ammendava per pregar difetto, perché il prego da Dio era disgiunto. Veramente, a così alto sospetto non ti fermar, se quella non ti dice che lume fia tra il vero e l'intelletto. Non so se intendi, io dico di Beatrice. Tu la vedrai di sopra in sulla vetta di questo monte, ridente e felice. Ed io, buon duca, andiamo a maggior fretta, che già non m'affatico come dianzi, e vedi omai che il poggio l'ombra getta. Noi anderem con questo giorno innanzi, rispose, quanto più potremo mai, ma il fatto è d'altra forma che non stanzi. Prima che sii lassù, tornar vedrai colui che già si cuopre della costa, sì che i suoi raggi tu romper non fai. Ma vedi là un'anima che posta sola, soletta, verso noi riguarda. Quella ne segnerà la via piuttosta. Venimmo a lei. O anima lombarda, come ti stavi altera e disdegnosa, e nel muover degli occhi onesta e tarda. Ella non ci diceva alcuna cosa, ma lasciava ne gir, solo guardando, a guisa di leon quando si posa. Pur Virgilio si trasse a lei, pregando che ne mostrasse la miglior salita. E quella non rispose al suo dimando, ma di nostro paese e della vita c'inchiese. E il dolce duca incominciava: Mantova! E l'ombra, tutta in sé romita, surse ver lui del luogo ove pria stava, dicendo: O Mantovano, io son sordello della tua terra. E l'un l'altro: abbracciava. Ahi, serva Italia, di dolore ostello, nave senza nocchiero in gran tempesta, non donna di province, ma bordello. Quell'anima gentil fu così presta, sol per lo dolce suon della sua terra, di fare al cittadin suo quivi festa. Ed ora in te non stanno senza guerra li vivi tuoi, e l'un l'altro si rode di quecum muro d'una fossa serra. Cerca, misera, intorno dalle prode le tue marine, e poi ti guarda in seno, s'alcuna parte in te di pace gode. Che val perché ti racconciasse il freno giustiniano, se la sella è vuota? Senz'esso fora la vergogna meno. Hai gente che dovresti esser divota e lasciar seder Cesar nella sella, se ben intendi ciò che Dio ti nota. Guarda com'esta fiera è fatta fella, per non esser corretta dagli sproni, poi che ponesti mano alla predella. O Alberto tedesco, t'abbandoni costei che è fatta indomita e selvaggia, e dovresti inforcarli i suoi arcioni. Giusto giudizio dalle stelle caggia sovra il tuo sangue, e sia nuovo ed aperto, tal che il tuo successor temenza naggia. C'avete tu e il tuo padre sofferto per cupidigia di costà distretti, che il giardin dello imperio sia diserto. Vieni a veder Montecchi e Cappelletti, Monaldi e Filippeschi, uom senza cura, color già tristi e costor con sospetti. Vien, crudel, vieni e vedi l'oppressura dei tuoi gentili e cura lor magagne, e vedrai Santa Fior come si cura. Vieni a veder la tua Roma che piagne, vedova, sola, e dì e notte chiama: Cesare mio, perché non m'accompagne? Vieni a veder la gente quanto s'ama, e se nulla di noi pietà ti muove, a vergognarti vien della tua fama. E se licito m'è, o sommo Giove, che fosti in terra per noi crocifisso, sono i giusti occhi tuoi rivolti altrove? O è preparazione che nell'abisso del tuo consiglio fai per alcun bene in tutto dall'accorger nostro scisso? Che le terre d'Italia tutte piene son di tiranni ed un marcel diventa ogni villan che parteggiando viene. Fiorenza mia, ben puoi esser contenta di questa digression che non ti tocca, mercè del popol tuo che s'argomenta. Molti han giustizia in cuor, ma tardi scocca, per non venir senza consiglio all'arco, ma il popol tuo l'ha in sommo della bocca. Molti rifiutan lo comune incarco, ma il popol tuo sollecito risponde senza chiamare e grida: io mi sobbarco. Or ti fa lieta che tu hai ben onde, tu ricca, tu con pace, tu con senno, s'io dico ver l'effetto non nasconde. Atene e Lacedemona, che fenno l'antiche legge e furon sì civili, fecero al viver bene un picciol cenno verso di te, che fai tanto sottili provvedimenti, a mezzo novembre non giunge quel che tu d'ottobre fili. Quante volte del tempo che rimembre leggi, monete, uffici e costume hai tu mutato e rinnovato membre? E se ben ti ricordi e vedi lume, vedrai te simigliante a quell'anferma che non può trovar posa in sulle piume, ma con dar volta suo dolore scherma. Fine del canto sesto.